Ecco, benvenuta allora la dottoressa Tomasi, benvenuti a tutti voi a questa serata. La Biblioteca Provinciale Claudia Augusta organizza settimanalmente degli incontri con l'autore, con l'autrice. I temi sono vari e, come vedete, cerchiamo di impegnarci, di dare voce a temi anche che possono interessare direttamente le persone, che possono avere una funzione sociale, civile, di educazione in tutti i sensi, e anche di stimolo per migliorarsi e per conoscere sempre i nuovi aspetti della propria vita, iniziare un nuovo percorso e insomma progredire. La biblioteca è in questo senso uno strumento aperto a tutti, lasciamo sempre sulla sedia le cartoline dei nostri inviti, delle nostre iniziative e soprattutto anche un modulo di iscrizione che è assolutamente gratuito, ma che vi permette di essere in contatto con noi, di conoscere quelle che sono le attività che offriamo gratuitamente ogni settimana e dei servizi che eroghiamo. In particolare sottolineo anche che il mercoledì sera dalle 17 alle 18 facciamo degli incontri per mostrare come utilizzare i nostri servizi online col tablet, con lo smartphone e con altri strumenti comodamente anche da casa. Quindi se venite qui vi facciamo una password e vi insegniamo a come leggere le riviste che sono online, messe gratuitamente a disposizione di tutti quanti, sono in oltre 50 più lingue, sono dei quotidiani anche. Poi questo è il mercoledì alle ore 17, dura un'oretta e ecco, vi insegniamo ad usare questi strumenti, chi ha piacere è libero di venire, di presentarsi ogni settimana. Abbiamo poi questi incontri con l'autore e poi siamo aperti tutti i giorni con l'orario che potete vedere anche sulla pagina web oppure sulle nostre locandine. Tornando alle iniziative, ecco, per noi è sempre importante avere un'occasione di incontrare chi scrive, chi lascia un segno, chi documenta, perché è un dialogo prezioso che si può instaurare con l'autrice e con l'autore. Questa sera è con noi appunto Cristina Tomasi. Sono delle occasioni straordinarie perché si conosce la persona che ha scritto, che ci vuole lasciare una testimonianza, ed è anche forse un'opportunità per fare delle domande e chiedere appunto, fugare dei dubbi che ci portiamo dietro. Il tema è molto accattivante, direi, molto coinvolgente, ci sentiamo tutti toccati da questa cosa e siamo anche molto curiosi. Il pubblico che è qui presente, diciamo subito un riscontro di quello che è la tua attività. Mi permetto di darle del tu perché eravamo al liceo. Ecco. Un po' di anni. Sì. Va bene, allora vi ringrazio, a te un grazie particolare per essere venuti qua in biblioteca e buona serata a tutti. Grazie. Buonasera a tutti i presenti, mi fa veramente piacere che insomma la salute ci interessi. Ma prima di iniziare vorrei ringraziare Valeria Trevisani e il suo staff. Io ho poi avuto modo anche di avere scambi email con Patrick Urru, che questa sera non c'è, e comunque anche ai tuoi collaboratori precedenti per l'attività che io so che voi svolgete settimanalmente, e questo richiede dedizione e entusiasmo, che al giorno d'oggi, credetemi, non sono qualità così scontate. Noi questa sera siamo qui a parlare di... Perché siete venuti qui? Chi lo sa, vero? La signora dice non lo sappiamo. Bene, brava signora, questo non mi piace, no? Ma la maggior parte forse di voi pensa che siamo venuti qui a parlare di dieta. Forse alcuni di voi penseranno... la dieta, l'alimentazione, un'alimentazione adeguata. Ma innanzitutto vediamo un momentino il significato della parola dieta, cioè l'etimologia. Dieta significa, cioè deriva dal greco dieta, che significa stile di vita. Quindi non significa castigo, mangiare di meno, questo non posso, quell'altro no. E quindi viene vissuta, da molti di noi, se si sente la parola dieta, viene vissuta un po' come una costrizione, un qualcosa a cui devo rinunciare. Decisamente non è così. Con questo libro, che cosa mi sono proposta? Io l'ho scritto anche nell'introduzione. È un libro che ho scritto perché mi hanno dato l'idea i miei pazienti. Io ho circa 24 anni che faccio il medico, sono specializzata in medicina interna, ho lavorato circa 14 anni all'ospedale di Bolzano in medicina interna e adesso 10 anni che sono libero professionista. Ritengo che l'informazione sia doverosa, dare l'informazione alla gente è un atto che vi dobbiamo per mettervi in condizione di vivere meglio. Io ho la fortuna, oltre ad avere amiche come Valeria Trevisan che mi invitano qui, di curare la pagina della salute da esattamente 2 anni del Dolomiten ogni sabato e di avere da 3 anni di condurre una trasmissione su Radio NBC ogni mercoledì mattina, sempre sulla salute, dove i radioascoltatori possono telefonare e porre le loro domande. E devo dire che sono attività che pare piacciano, a me divertono tantissimo. E mi diverte tantissimo essere qui con voi e poter parlare di quella che è un'alimentazione a cui noi siamo abituati da oltre 2,5 milioni di anni, ma mi correggo, a cui noi saremmo abituati, quindi uso il condizionale volutamente, da 2,5 milioni di anni, ma che purtroppo negli ultimi 60 anni abbiamo decisamente dimenticato. Abbiamo dimenticato perché stiamo mangiando male, ma stiamo mangiando male perché ci viene detto di mangiare in un determinato modo. E qual è questo modo? Ma sicuramente è quello di consumare una grande quantità di cereali raffinati dal punto di vista industriale, quindi con un valore nutrizionale pari a zero. Quindi quante volte andiamo al supermercato e mettiamo nel carrello, ad esempio, grissini, crackers, fette biscottate, i cereali delle più svariate marche, siccome siamo in un piccolo gruppo mi permetto anche di fare nomi e cognomi, possono essere crackers di ogni marca, grissini di ogni marca, dalla Molino Bianco, alla Saiva, alla Balsen, quello che volete voi. Kellogg's, cioè i cereali del mattino, sono molti i bambini che ricevono questo tipo di cereali al mattino, di comprare, purtroppo le generazioni più giovani comprano cibi già precotti. Io ho delle pazienti che lavorano in supermercati, che sono cassiere, e per me è sempre molto istruttivo parlare con loro perché mi dicono cosa compra la gente. Voi lo sapevate che la Barilla ha fatto una pasta che basta metterla 3 minuti al microonde e pronta? La metti nel piatto e pronta, sugo, pasta e tutto. Io la trovo brillante, no? Poi il purè, basta mettere su l'acqua bollente, mescolo e pronto. Ma voi avete mai visto le patate in polvere? No? Poi mi arrivano i pazienti in ambulatorio e mi dicono no, perché io il latte non lo sopporto e quindi allora bevo il latte di soia, giustamente, no? Il latte di soia. Ma io vi chiedo, avete mai visto voi che un fagiolo dà il latte? Cosa faccio? Mungete il fagiolo? Non mi sembra, giusto? La vostra mamma beveva latte di soia? No. No, vero? Non c'era. Mangiava le gallette di riso la mamma? No, ma non occorre che abbiamo adesso mia mamma che è qui anche lei che è del 35, non occorre che abbiamo negli anni 40, eh? Io quando ero piccola, quindi negli anni insomma 70, io non ricordo che ci fossero le gallette di riso, quello che mangiavo in quantità industriale era la Nutella, infatti c'è chi si ricorda che è qui, no? Ecco, poi ho smesso, grazie a Dio, nel 2006, per causa mi fa schifo adesso, per fortuna, perché io ero una dipendente da Nutella, quindi col cucchiaio da minestra, ero una professionista della Nutella. E per fortuna, insomma, abbiamo superato anche questa, ma sono tante le, tra virgolette, Nutelle che arrivano nei vostri carrelli della spesa e che arrivano sulle vostre tavole. Perché? Perché innanzitutto non siete coscienti di quello che andrate a comprare e anche perché purtroppo quello che vi viene così predicato dalle linee guida dei cosiddetti autocrati dell'alimentazione è quella di non consumare carne rossa, perché la carne rossa fa venire il cancro, giusto? O se no fa male al fegato, o se no fa male ai reni. Di non consumare i grassi animali, perché i grassi animali fanno salire il colesterolo, giusto? Sì. Le uova mai più di 2 settimane, dico giusto? Sì. Ho studiato bene. È informata. È informata, ecco, sono informata, no? Quindi queste sono le cose con cui noi viviamo, quindi cerchiamo, ci dicono di mangiare più pesce, non ci riesce quasi nessuno. Cioè poi in Alto Adige ci riescono veramente in pochi. Non è che ci mancano i negozi del pesce, insomma anche qui nei dintorni abbiamo la Vespa, che è un banco del pesce notevole, c'è la pescheria in Corso Libertà, ci sono i surgelati, giusto? Insomma siamo lì che ci arrabattiamo, e quindi la nostra alimentazione di che cosa consta? L'80% di cereali, non dico di carboidrati, di cereali. Lasciamo stare frutta e verdura, che poi parliamoci chiaro. Ci viene detto di consumare 5 porzioni al giorno di frutta e di verdura. Alzi la mano, chi lo fa? 5. Io non alzo. 1, 2, 3 e mezzo, 4 e mezzo, 5 e mezzo. Facciamo 10 e non se ne parla più, perché oggi mi sento generosa, insomma 10 su, non sono quanti pochi, no? Ecco, e bene. Perfetto, quindi 5, cioè 5 non significa una scofana così, anche se uno si mangia un arancio, è già una porzione, d'accordo? Ecco, non è che uno deve farsi sempre la scofana in salata, perché sarebbe un po', si fa anche una spremuta, una centrifuga, la spremuta non ve la consiglio, poi vediamo il perché. Una centrifuga, magari su 2 porzioni, d'accordo? Ecco, giusto per dimensionare un pochino. Comunque io non me la faccio, anche perché i propositi sono buoni, ti fai l'insalata, ti fai forse un arancio, poi arrivi la sera che dovresti curarti la verdura, ma insomma, giusto Valerio, arrivi la sera che sei ribaltato e che dici vediamo di fare qualcosa che sia insomma commestibile e sano. D'accordo. Facciamo qualche passo indietro alle affermazioni di prima. I grassi fanno male. E se io vi dicessi che mangio dalle 14 alle 20 uova in settimana, voi cosa mi rispondereste? Che è troppo, che avrò un colesterolo terribile, giusto? Chissà, mio marito ne mangia 25 in settimana, nostro figlio ne mangia sempre 14 in settimana, a volte 18, a 11 anni e mezzo. Mio marito ha un colesterolo totale di 169, HDL 75, trigliceridi 68. Mamma mia, ma mangiamo uova. Vero? Infatti, giusto per dirvi che anche questo, che il colesterolo viene fatto salire dai grassi saturi, è una balla, permettetemi così l'eufemismo. E da quando nasce questa balla? Vi hanno fatto venire l'isteria dei grassi, la fobia, la paura dei grassi. No, ma non posso mangiare perché c'è il colesterolo. Poi mi viene sempre un pelo da sorridere, perché abbiate pazienza, mi tirate via il grasso dal prosciutto e mi mangiate la brioche. Giusto? Sì. O la torta, non lo so, o il croissant, non lo so. Ecco, mi viene a sorridere perché? Perché andate a tirarmi via un grasso cosiddetto saturo, pericoloso, e andate a riempirvi di grassi poliinsaturi vegetali e magari anche trans, acidi grassi trans. Noi negli ultimi 40 anni abbiamo mangiato così pochi grassi saturi nella nostra alimentazione come mai nella storia della umana. Ma mai siamo stati così malati come negli ultimi 40 anni. Io sicuramente non resto senza lavoro, ma non perché sono brava, perché voi continuate a malarvi. Ma uno dice, ma però viviamo a lungo. Ah sì sì, viviamo bene a lungo. Ma che cosa intendete voi per vivere a lungo? Io vivere a lungo intendo andare in pensione, anche lì sarà un po' un terno all'otto, ma possibilmente godermi la pensione, senza dover investire il tempo, il denaro della mia pensione per curare determinate malattie, determinate da quello che io potevo evitare mangiando meglio. Viviamo più a lungo, bisogna però vedere, però vi dico anche che la tendenza delle nuove generazioni, che sono i nostri figli, cioè i figli della dottoressa Trevisani e miei, quindi quelli che sono i teenager di adesso, cioè andiamo avanti così, sono destinati a vivere meno a lungo, perché si ammalano prima, perché ormai abbiamo i diabetici di tipo 2 sotto i 20 anni. In America da che mo', ma noi in Europa che andiamo indietro a ruota, purtroppo ci andiamo dietro. In Germania sono messi peggio di noi, ma è una magra consolazione ovviamente. Ma non parliamo di obesità, perché non siamo qui a parlare di obesità, ma di tutte quelle malattie che sono correlate a un'alimentazione scorretta, che sono l'ipertensione, il diabete, il morbo di Crohn, le gastriti, la carie, la demenza di Alzheimer, l'osteoporosi, la depressione e il cancro. Cancro colon, cancro mammella, cancro all'ovaio. Sono tutte e alla prostata correlate fortemente con quello che mangiamo. Negli ultimi 40 anni noi abbiamo ridotto in maniera drastica il consumo di grassi saturi, perché il burro, quando io nomino il burro, sembra una bestemmia, giusto o sbagliato? Cioè ci hanno perfino inculcato la margarina, no? Vero? Cioè, già 20 anni fa infatti la margarina. Ma sapete cosa ho fatto caso? In una despa sono andata, quando tu vai lì per tutti i tuoi corti con lo yogurt, il latte, ho visto le margarine. Sì, beh, micidiali, ce ne saranno 7 marche diverse, quindi vuol dire che se ci sono, le hanno comprate. Dopo vi racconto come viene fatta la margarina, lo spiego anche nel libro. Comunque, torniamo a vedere perché noi abbiamo mangiato così pochi grassi saturi, che sarebbero i grassi animali, a favore invece di una quantità industriale di zuccheri raffinati, cereali raffinati e grassi vegetali polinsaturi. Perché nel 1952 negli Stati Uniti c'era un fisiologo, un medico, un fisiologo, un ricercatore di laboratorio di nome Ansel Case, che aveva questa ipotesi dei lipidi, cioè tu mangi grassi saturi, il colesterolo sale e quindi si piglia l'infarto, perché già allora negli anni 50 in America avevano grossi problemi di mortalità per infarto e quindi cercavano una soluzione. E quindi questo qua aveva la sua teoria, ma se tu hai una teoria devi dimostrarla. Quindi la sua teoria, detta appunto l'ipotesi, l'ipotesi dei lipidi, lui ha detto faccio uno studio. E lui ha fatto uno studio e ha preso 22 paesi in giro per il mondo, fra cui anche l'Italia, la Svizzera, Francia, Giappone, America, ha preso tutti quelli che hanno avuto un infarto, non necessariamente morti, no? Tutti quelli che hanno avuto un infarto, e voleva dimostrare che tutti quelli che hanno avuto un infarto avevano il colesterolo alto. E ha pubblicato lo studio, quindi 22 paesi, ha pubblicato lo studio, che poi è stato pubblicato anche negli anni 70, e chiamato Seven Country Study, lo studio dei 7 paesi. Cioè io in matematica ero scarsa, facevo il classico. Ma 22 meno 7 fa 15. E uno si chiede, scusa un momento, tu hai analizzato 22 paesi e mi fai uno studio e mi dici lo studio dei 7 paesi, perché? È perché di questi 22 paesi, 15, gli infartuati di quei 15 paesi non avevano il colesterolo alto, ce l'avevano normale o addirittura basso. Questo lui ha omesso di dirlo, quindi vuol dire che io ti pubblico una cosa già con dei bias, quindi creo uno studio a mia immagine. Lui l'ha anche detto gli anni dopo, questo lo trovate tutto su internet. La bellezza del mondo di adesso, ancora, perché vorrebbero oscurare alcune cose di internet, ma non ci sono ancora riusciti per fortuna, è che tu trovi tutto. Lui l'ha anche detto, che non era, che in effetti non è il colesterolo che fa venire l'infarto, ma purtroppo sono partiti. In America poi negli anni 70, sotto il governo Nixon, c'era un senatore McGovern, che ha preso in mano questa cosa qui. Figuratevi se negli anni 50 morivano tanto di infarto negli Stati Uniti, negli anni 70 erano devastati, dovevano assolutamente fare qualcosa. E cosa hanno fatto allora? Hanno cominciato a stilare le piramidi alimentari, mettendo alla base i cereali, perché allora alla base c'erano, cioè frutta e verdura non veniva neanche considerata una volta, quindi i cereali. E sopra c'erano invece le proteine, soprattutto i grassi, erano al top, cioè sopra pochi, voi sapete la piramide come è fatta, quindi alla base, ecco. Molti scienziati di allora, molti medici, hanno provato a dire: guarda che se tu parti con questa piramide alimentare verrà fuori un disastro. A parte che lui ha assoldato dei vegetariani a fare la piramide alimentare, dico, allora se uno sceglie di mangiare vegetariano o vegano è una sua scelta, io non critico, ma che tu mi fai una piramide alimentare per uno stato di, allora non lo so, adesso sono oltre 300 milioni, comunque basato su una mentalità o una scelta di vita, direi che non andiamo proprio bene. Comunque questi sono andati avanti, hanno cominciato a uscire le piramidi alimentari così. Vi lascio immaginare gli interessi economici dell'industria agroalimentare, perché ovviamente chi guadagna di più? Chi fa i biscotti del Mulino Bianco o chi produce l'uovo biologico? Non occorre che spendiamo molte parole, è ovvio che guadagna di più il biscotto del Mulino Bianco, che viene prodotto a costi bassissimi e viene venduto a prezzi assurdi per quello che viene offerto. E da lì è cominciato, hanno fatto la guerra al colesterolo e ovviamente dall'America questa roba è arrivata in Europa e sono tutte le cose che noi conosciamo. Poi sono arrivate negli anni 80, 90, le statine anche, no? I farmaci che abbassano il colesterolo. Le statine sono un mercato da 29 miliardi di dollari l'anno. Quindi con la vendita di un solo principio attivo. Quindi che cosa succede? Che io con 29 miliardi all'anno mi compro gli studi scientifici e mi compro anche le società scientifiche mediche. Io non ho nessun problema di dirvi che per 20 anni io ho prescritto statine in maniera aggressiva, in quanto ti dicevano sempre, ti dicono ancora, che devi prescriverle in maniera aggressiva. Adesso in America le danno anche ai bambini. In America danno le statine anche se tu hai una familiarità. Questo è benissimo, ma c'è mamma che ha avuto un infarto o il papà o chi che sia della tua famiglia di primo grado, guarda, te la diamo che così preveniamo. È come se io vi dicessi, siccome adesso abbiamo gennaio e siamo in mezzo al periodo di influenza, io vi do adesso l'antibiotico che non si sa mai che vi venga una polmonite. Voi capite che è un discorso un pelo assurdo. E la stessa cosa è quello delle statine. Perché? Perché innanzitutto con le statine noi non preveniamo assolutamente niente. Gli studi che hanno fatto, comunque di analisi di tutti gli studi pubblicati dalle statine, emerge che l'unico beneficio di assunzione delle statine è per uomini sotto i 65 anni di età che abbiano avuto un infarto. Tutti gli altri, 92,3% di persone che ingoiano statine, le pigliano più o meno per niente, perché non è che io, riducendo il colesterolo, vivo più a lungo. Io quando chiedo, potrei chiederlo anche a voi, perché prendete la statina? Perché se basse il colesterolo. E allora? Se io mi faccio un intervento di chirurgia plastica e dimostro 20 anni, secondo voi vivo 30 anni di più? No, perché siamo d'accordo che la mia carta d'identità farà sempre 49 anni. D'accordo? La statina vi fa un effetto cosmetico, vi abbassa il colesterolo. Quello che vorrei anche darvi questa sera è la notizia, è la nozione di quanto sia importante il colesterolo. Pensate che quasi ogni cellula del nostro corpo produce colesterolo. Perché? perché tutte le membrane cellulari contengono colesterolo e fosfolipidi, che sono quelli che danno proprio la forma e la plasmaticità anche delle membrane. La nostra pelle è così perché abbiamo il colesterolo. Pensate che il colesterolo è la materia prima da cui vengono fatti gli ormoni sessuali, estrogeni, progesterone, testosterone, i minerali corticoidi come l'aldosterone, i corticosteroidi come il cortisone. Il colesterolo è la materia prima. Noi sappiamo quante cliniche ci sono dell'infertilità, giusto o sbagliato? Sappiamo che noi anche all'ASI, a Brunico ad esempio, si occupano di infertilità. Ma io penso che 40 anni fa non c'erano questi problemi in maniera violenta come ci sono oggigiorno. Ci sono studi che fanno vedere che in queste coppie cosiddette sterili, che poi non sono sterili, non mangiano grassi. E se tu questi qui li metti a mangiare grassi animali, tipo gli dai il caffè con la panna montata, e gli dai formaggi, gli dai carni, li fai cucinare col burro, questi risolvono anche l'infertilità. E vi posso confermare questo fatto perché ho dei colleghi dell'ospedale di Grosseto, dove ho un carissimo collega che lui è dietologo e che segue questo tipo di alimentazione. Il suo collega primario della ginecologia tratta le infertilità modificandogli l'alimentazione, altro che ormoni, modificando l'alimentazione. Ma torniamo al colesterolo. La vitamina D parte anche dal colesterolo nella pelle tramite l'effetto della luce solare, che poi noi abbiamo il 70% di noi, forse anche 80%, un deficit di vitamina D e un altro paio di maniche. Quindi, prima raccomandazione della serata, fatevi fare un esame del sangue per dosarvi la vitamina D, che è importantissima non solo per assorbire il calcio a livello intestinale, ma anche per impiantarlo nelle ossa e anche per stimolare il vostro sistema immunitario. Io i miei pazienti non li vaccino mai per l'influenza, perché è un'altra scemenza. No, non serve assolutamente, però gli do vitamina D, che costa anche molto meno di un vaccino. Costa dai 4 agli 8 euro l'anno. Mi pare tanto per stare bene e soprattutto per gli anziani, per farli camminare meglio, molto più stabili e quindi farli cadere meno. Ma non andiamo col tema, parliamo di colesterolo. Il colesterolo serve anche. Non serve, noi abbiamo 100 grammi di colesterolo nel corpo, non milligrammi, grammi. Quello che voi vedete negli esami sono milligrammi. Noi abbiamo 100 grammi di colesterolo nel corpo, il 25% sono nel cervello. Dove nel cervello? Nelle sinapsi, che sono i contatti tra le cellule di l'una e con le altre, e nella mielina, che è la sostanza che riveste le cellule e le fibre nervose. La mielina è quella che quando viene attaccata abbiamo la sclerosi multipla. Le sinapsi sono quelle che ci rendono la mente attiva e la memoria funzionante. Voi sapete che uno degli effetti collaterali possibile delle statine è l'amnesia. C'è un medico che lavorava alla NASA, che gli ha dato la statina, ha avuto un'amnesia violenta, l'ha smessa, per carità, dopo ritorna alla memoria, ma che è uno dei più acerrimi nemici della statina. Infatti è scritto un libro, Lipitor, in America il Thor va stato una statina, si chiama Lipitor, e l'ha chiamato Lipitor, il ladro della memoria. Per quanto riguarda invece la sclerosi multipla, c'è una collega americana, internista anche lei, che si è ammalata all'inizio dell'anno 2000 di sclerosi multipla, in una forma veramente molto molto molto grave, in questo momento blackout completo, io non piglio la statina, vi assicuro, non mi ricordo più come si chiama, perché ha fondato, cioè una foundation, una fondazione sua, e lei era finita sulla sedia a rotelle e non c'era più niente da fare, nonostante lei avesse consultato gli specialisti più grandi degli Stati Uniti. Allora ha cominciato a studiare, a guardare, a dire: ma cos'è la sclerosi multipla? Anticorpi contro la mielina, che cosa posso fare io? E ha cominciato a modificare l'alimentazione, quindi lasciando via tutti quegli zuccheri, cereali raffinati, mettendo i grassi sani nell'alimentazione, la verdura e la frutta sana, le proteine sane. Lei cammina, ha una vita normale, è praticamente ha guarito la sclerosi multipla. Io non sono qui a dirvi che guariamo adesso la sclerosi multipla, ma lei è una testimonianza vivente che questo è possibile, come per tantissime altre patologie, come anche per il diabete di tipo 2, se io modifico l'alimentazione guarisco dal diabete di tipo 2. Questo è garantito. Questo solamente per dirvi quanto è importante il colesterolo. E vi dico ancora un'altra cosa per quanto riguarda il colesterolo. Innanzitutto ne abbiamo bisogno, come anche degli acidi grassi saturi, soprattutto quelli a catena media e corta, per il nostro sistema immunitario. Infatti è dimostrato, è un dato di fatto, che se noi mangiamo grasso sano ci protegge dalle malattie infettive, anche come ad esempio l'influenza, e se ci ammaliamo guardiamo prima. Ma ci si ammala anche 4 volte meno di AIDS mangiando con grassi in maniera adeguata. Ed è di nuovo dimostrato anche che chi ha valori bassi di colesterolo hanno un comportamento aggressivo, violento, sono visti anche in carcere degli Stati Uniti, dove hanno fatto appunto degli esami su questi omicidi. Sono personaggi con comportamenti violenti e che tendono anche proni al suicidio. Negli anziani i valori bassi di colesterolo correlano con un più alto rischio di malattie e di morte. Quindi nell'anziano è meglio che il colesterolo sia un po' più alto. E non c'è nessun problema se il colesterolo è alto. Oggi è venuto un paziente al controllo, è a 41 anni, è uno stressato, ha 5 figli, una bella famiglia, e venne da me l'8 novembre, mandato dal suo medico di base, con 847 di trigliceridi e 380 di colesterolo. Prendeva la statina, ovviamente. Io gliel'ho sospesa, ovviamente, perché se noi non modifichiamo l'alimentazione non serve a niente. Allora gli ho modificato l'alimentazione e gli ho dato la mia, non mi piace chiamarla dieta perché la considero dieta, intendetela come stile di vita. A me piace pensare di insegnare a mangiare ai miei pazienti. Io li accompagno per un pezzo e poi loro vanno da soli. È come quando ci insegnano a camminare, ci danno la mano all'inizio e poi andiamo. Per tutta la vita camminiamo poi. La stessa cosa lui. Lui praticamente è passato, ma già il mese dopo, da 850, 847 che aveva, a 157 di trigliceridi e da 350, 380, non mi ricordo più, di colesterolo, è passato a 230 e rotti. Lui era un po' spaventato, perché? È perché la mattina mangia 2-3 uova al burro e pensava: questa qua l'hai matta, no? Ma giusto per dimostrarvi che quello che noi mangiamo di grasso influenza nell'ordine del 10% al massimo il nostro colesterolo, perché non è il grasso che alza il grasso, ma è lo zucchero che alza il grasso. Quindi vi invito a fare un momentino mente locale su cosa mangiate. Allora, se io vi chiedo, io chiedo sempre così, in maniera molto discorsiva, che cosa mangiate a casa? Allora, la mattina viene fuori il pane, le fette biscottate, i biscotti. A metà mattina c'è chi mangia la brioche, c'è chi mangia tutto, c'è chi non mangia, non è un problema. A mezzogiorno la pasta, ovviamente, non la pasta. Ecco, e poi il pomeriggio molti insomma tirano via dritto, che non sia tempo, e la sera la minestrina con dentro la pastina, e a volte c'è chi fa un secondo, poi ci sono anche chi mi fa un primo secondo sia a pranzo che a cena. Ma allora se noi guardiamo, facciamo la torta dei percentuali, percentuale di grassi, 20%, perché state sempre attenti, poco olio, giusto? Burro, no, il burro non, io non uso il burro, non ce l'ho neanche a casa il burro io. Io ne faccio un po' di chili al mese, cucino solo con l'olio, ma poco. Poi c'è la gente che è stitica, no? Poco. Quindi abbiamo, la maggior parte sono cereali. Non è che abbiamo un'alimentazione che è fatta del 50%, arriviamo all'80%, dico non di carboidrati, ma dico proprio in maniera cosciente, cereali. Perché sono crackers, fette biscottate, pasta, riso, pane, grazie signora, pane, soprattutto pane, ecco. Ma allora io vi chiedo, ma scusatemi, ma voi che la pasta vi piace tanto, se voi pigliaste della pasta, la cuoceste nell'acqua senza sale, la scolaste e la metteste lì nel piatto, così, è buona? Fa schifo, giusto? Fa schifo. Io una bistecca me la mangio, un carpaccio, così, senza niente. Mi piace la carne, ma mi mangio anche il carpaccio di salmone, così, crudo. Non c'è nessun problema. Giusto per dirvi che la pasta, quella che mangiate voi, non ha niente di valore nutrizionale. Adesso qui stiamo toccando quello che è un mito degli italiani. Ma non è questa la pasta. Comunque, mi va bene la pasta, ma almeno riducete la frequenza, non la quantità, ma ne mangio solo 50 grammi. Cioè, se io nel piatto devo avere una cosa così, non mi siedo neanche a tavola se ho fame, giusto? Cioè, se io ho fame, mangio. Infatti, quando mi chiedono, ma quante porzioni, come deve essere la porzione? Ma scusi, dico io. Cioè, lei ha fame, mangia. Ha tanta fame? Mangia tanto. Ha poca fame? Mangia poco. Non ha fame? Non mangia. Mia mamma, che ormai si è abituata, quando noi mangiamo la domenica alle 3 di pomeriggio, pranzo, 3 di pomeriggio, all'inizio diciamo, fuori, ma dico, ma scusa, perché io devo mangiare alle 1 se non ho fame? Abbiamo fatto colazione magari alle 9:30, 10. E la sera a volte succede che non abbiamo fame e tiriamo via dritto. Ma lo sapevate che gli antichi, dico mica 200 anni fa, 2500 anni fa, facevano il digiuno intermittente? I romani un giorno in settimana non mangiavano, bevevano solo. Io vi faccio un digiuno intermittente un po' più piccolo, saltate un pasto. Mica mai morto nessuno, anzi hai del beneficio enorme. Non ho fame, non mangio. E che abbiamo questa cosa qui inculcata, no? Adesso è mezzogiorno, devo mangiare. È così, perché è così. Poi anche altro mito da sfatare. No, no, perché io non faccio colazioni, mi rendo conto che è male. Chi l'ha detto che è male? Ma se uno non fa colazione perché la mattina gli viene da vomitare, ma è necessariamente sfigato. Poi vengono fuori gli studi, no? Perché se uno non fa colazione, il bambino diventa obeso. Ma te l'hai visto quel bambino lì cosa mangia a merenda? Ma l'avete visto le scuole, perlomeno le superiori, che hanno tutti i distributori di bevande, Coca-Cola, Fanta, distributori delle merendine, barrette di qua e di là, vogliamo parlarne? Lo dico, ma un direttore, mettiti la mano sul cuore, sei contento tu direttore di questa roba qui? Io se fossi direttrice mi veramente sul mio cadavere prima di mettere questo in una scuola. Parliamo di Alto Adige, non stiamo parlando di Roma. Ci sono queste cose, di università. Ma proviamo a metterci dentro, non lo so, i parmigianini, l'acqua. E non si fa mica il guadagno con quella roba lì, eh? Allora, guardiamo i bambini cosa mangiano. Le mamme, cosa comprano al supermercato i bambini? L'avete mai guardato i carrelli delle mamme? Ma secondo voi è colpa dei bambini? Colpa nostra. Lo sapete che se voi fate vedere ai bambini, ci sono delle bellissime foto che circolano anche in Facebook, quante zollette di zucchero sono contenute nelle bibite e negli alimenti più tipo, non lo so, la Coca-Cola, 9 cubetti di zucchero. una merendina, 5 cubetti di zucchero, il ketchup, 2 cubetti di zucchero, la senape, 1,5 cubetti di zucchero. Messaggio numero 2. Quando comprate, guardate l'etichetta e vedrete lo zucchero dappertutto. Perché? Perché se noi mangiassimo qualcosa di dolce, solo dolce, dopo un po' ci stucca. Se mangiassimo qualcosa di solo salato, dopo un po' diciamo basta. L'industria alimentare cosa ha fatto? Vi ha messo sale e zucchero insieme, così noi, come degli idioti, continuiamo. Volete un esempio? Le patatine. Giusto? Perché c'è sale e zucchero, solo che non c'è scritto zucchero, troppo facile. Ci sono almeno 12 nomi diversi con cui lo zucchero vi viene proposto. E ma è fruttosio e sano. Quale? Se voi mi parlate del fruttosio e della frutta, mi va bene. Ma perché? Perché nella frutta è dentro a tantissime altre cose, poche vitamine, perché vi sfato subito un mito, ma io faccio ogni giorno una spremuta d'arancio perché così ho la vitamina C. Ma devo dirvi che le fragole hanno molta più vitamina C delle arance. E poi la vitamina C, voi lo sapevate che noi, le scimmie e i criceti, siamo gli unici esseri viventi che non riusciamo a produrci vitamina C da soli? Dobbiamo mangiarla, introdurla. Solo che le scimmie, i criceti, insomma non paragoniamoci ai criceti, le scimmie girano nella foresta e continuano tutto il giorno a mangiare. E quindi tirano giù la banana, mangiano, tirano giù il frutto, mangiano, tirano giù la foglia, mangiano. Noi invece andiamo al supermercato, facciamo la spesa, portiamo a casa. O andiamo da fruttivendolo, magazzino, dove volete voi. Quella frutta e quella verdura lì non è stata presa dall'albero la mattina, siamo d'accordo, vero? Le arance, insomma, nella migliore delle ipotesi, sono lì da una settimana. Poi le mettiamo a casa nel cesto della frutta, perché noi vogliamo fare in modo di fare le 5 porzioni al giorno, e ogni giorno scende la vitamina C del 40%. Quindi voi mangiate arance senza vitamina C, quasi. Ecco, questo per quanto riguarda la vitamina C, ma hanno tantissimi altri nutrienti, per carità, però sulla vitamina C mettetevela via, perché con frutta e verdura non fresca, non raccolta subito, è veramente quasi impossibile coprire il fabbisogno di vitamina C. Però vediamo al fruttosio, abbiamo le fibre della frutta che riducono l'assorbimento dello zucchero. È per questo che dico, la spremuta di frutta va bene per quei soggetti che non hanno problemi metabolici, ad esempio che non sono sovrappeso e che non hanno problemi di colesterolo, trigliceridi e glicemia elevata, perché a quelli li sconsiglierei vivamente di farvi le spremute d'arancio. È meglio mangiare il frutto intero perché la fibra riduce l'assorbimento di fruttosio. Poi il fruttosio basta, non comprate fruttosio perché è un tipo di zucchero che non muove la glicemia e finisce direttamente nel fegato trasformandosi in trigliceridi e dopo abbiamo il fegato grasso. Gran parte dei miei pazienti presentano, io faccio sempre quando li visito un'ecografia base del collo, tiroide e tutti gli organi interni, un fegato grasso, quella che si chiama epatosteatosi. Ma perché? Ma io non mangio grasso, mi dicono sempre, non metto in dubbio, ma se tu mi mangi il 70-80% delle tue calorie sono carboidrati, sono cereali, perché ti fai la pasta, perché ti fai il pane, perché fai la scarpetta col sugo, perché ti mangi la brioche, perché ti mangi i crackers, perché ti mangi il pane la mattina e la sera la mangiati la pizza una volta a settimana con gli amici, tu hai un costante apporto di carboidrati, cioè di zuccheri, che continuano a stimolare la tua insulina. L'insulina è un ormone prodotto dal pancreas. Che cosa fa? Il compito dell'insulina, quando si alza la glicemia, è fare in modo di far ritornare la glicemia a livelli normali. E che cosa fa? La mette nel fegato, mette lo zucchero nel fegato, muscoli e le cellule grasse. Queste. Giro vita. Perché? Perché se la gente continua a mangiare un surplus di zuccheri così, succede che la glicemia del sangue è costantemente alta e deve essere prodotta sempre di più insulina finché arriviamo a una resistenza insulinica. Determinate cellule non rispondono più all'insulina. E quindi che cosa succede? L'insulina è sempre di più, io ho una resistenza insulinica e le prime cellule che non rispondono più all'insulina sono le cellule dei muscoli e quelle del fegato. Però rispondono ancora. La maggior parte quindi finiscono nelle cellule grasse, aumentando il nostro adipe, nel fegato vengono trasformati i trigliceridi, fegato grasso, e l'insulina ha un effetto anche diretto di stimolo di produrre colesterolo e trigliceridi che si alzano. Quindi voi capite che più mi lasciate via i grassi, più mi mangiate carboidrati, più i vostri grassi rimarranno alti. Se invece voi tentate di ridurre l'introito dei carboidrati che mangiate portando un po' di equilibrio e aumentando l'introito dei grassi e delle proteine sane, tipo le uova, vi consiglio le uova biologiche, qui da noi in Alto Adige è facile, a Bolzano ci sono i mercati rionali dei contadini, una carne di allevamenti adeguati. Perché di allevamenti adeguati? Perché le carni degli allevamenti di massa non sono carni sane, sono carni pericolose, sono carni che sono state pompate di ormoni, di antibiotici per far crescere le bestie che sono 20-30.000 alla volta velocemente, sono carni che voi sapete se le mettete nella padella si rattrappiscono, cioè vedi prima 2 etti e mezzo di bistecca che rimane un etto, dura come non so, le scarpe. Ma ci sono le possibilità di avere carni adeguate, credetemi. La stessa cosa vale per il pesce, per chi leggete il pesce pescato, e se no surgelato, ma va bene. Poi se sentono tutte queste cose che ti dicono che adesso c'è la sostanza che ti fa il pesce, se gli è andato male te lo fa sembrare fresco. Facciamo anche un atto di fede, a un certo punto proviamo a cucinare e a comprare in maniera sana. Ma se vogliamo mangiare in maniera sana, il mangiare dobbiamo cucinarcelo noi. Ed è assurdo che andiate a comprarmi le fette biscottate, perché le fette biscottate non sono un mangiare sano, ma sono un mangiare, sono plastica industriale. Perché tutti i prodotti che voi comprate di confezionati contengono non solo zuccheri, pazienza, ma contengono, oltre al male degli zuccheri, contengono acidi, grassi esterificati, perché l'industria alimentare cosa ha fatto? Aveva bisogno di grassi solidi, come il burro, per fare in modo che i loro prodotti durassero nel tempo. Tu compri i tuoi biscotti, giusto, i grissini, c'è scritto scadenza agosto 2015, e dice vabbè lo compro, no? Ma scusatemi, quando voi fate la torta scade agosto 2015? No, i biscotti che fate a Natale sono buoni a Pasqua, a schifo, giusto? Bisogna conservarli, però mettiamo in freezer a questo punto così siamo sicuri che, ecco, perché se no. Quindi come hanno fatto? Hanno preso gli oli vegetali poliinsaturi, tipo l'olio di colza, l'olio di mais, il girasole, li hanno messi in... l'ho scritto nel libro, ne hanno messi nel in specie di container al nickel o alluminio dove vengono surriscaldate a temperature altissime e vengono bombardati con atomi di idrogeno e quindi vengono fuori gli acidi grassi, i grassi idrogenati o parzialmente idrogenati diventano solidi. Questa è la vostra margarina, cioè dico, quando esce è una cosa grigiastra che puzza, poi loro cosa fanno? Deodorano, colorano, profumano e poi ti scrivono margarina con vitamina E e omega 3, è vero o no? Ma alla fine con quali grassi dovremmo cucinare? Ma se vogliamo friggere dovremmo usare dei grassi sicuramente stabili. e gli unici grassi che sono stabili sono gli acidi grassi saturi, non quelli poliinsaturi, sono i grassi saturi. Quindi potete prendere grasso di cocco, burro, lardo o grasso di palma non raffinato. Se volete fare un soffritto, ad esempio fate soffritto per fare qualsiasi cosa, dall'arrosto alla minestra di verdura, usate olio di oliva extravergine. E vi specifico l'extravergine, perché l'extravergine è un marchio che non può essere modificato. Una parola sull'olio di oliva extravergine: l'olio di oliva extravergine è un olio monoinsaturo, vuol dire che ha un doppio legame. Ha il 73% di acido oleico e è molto simile al lardo. Io mi mangio sempre lardo di colonnata, me ne faccio fuori 2-3 etti alla settimana, senza pane, ovviamente, no? Non c'è nessun problema. E quando condisco l'insalata, noi condiamo di olio di oliva extravergine, aggiungiamo un po' di olio di lino, perché è sicuramente la fonte vegetale più ricca vegetale di omega 3. Poi mettiamo il nostro sale, pepe, i semi di lino, i semi di quello che hai lì al momento. Comunque, olio di oliva monoinsaturo va bene per soffritti e per tutta la cucina fredda. E tutti gli oli invece, quelli che è semplicissimo, consiglio numero 3, tutti quelli contenuti nelle bottiglie di plastica non li comprate, d'accordo? Non li comprate, perché se voi mi friggete, mi scaldate quegli oli lì, quelli lì, tutti i loro doppi legami, perché sono poliinsaturi, sono pieni di doppi legami, saltano e si formano acidi grassi trans, che sono questi che vi ammazzano. Non il colesterolo del mio lardo, non ho mai ammazzato nessuno il colesterolo, ma sono quelli lì i grassi pericolosi, sono quelli che sono altamente aggressivi per le cellule, sono quelli che aggrediscono le vostre arterie coronarie incluse, e sono quelli che purtroppo non vengono riconosciuti dal nostro corpo e vengono inglobati nelle membrane cellulari, li distruggono e creano una situazione di infiammazione totale e costante nel sangue. Quindi non compratevi quegli oli lì. Se volete friggere, tipo fritto misto di pesce, pigliate o il burro chiarificato, che è il ghee. Il burro chiarificato è burro a cui viene tolta l'acqua, che sicuramente chi di voi ha più anni di me si ricorda. O piglia il lardo, io piglio l'olio di cocco che trovi al biologico. A casa nostra usiamo sempre burro, olio di cocco, olio di oliva extravergine per cucinare, ok? L'olio di semi, via, al biologico. Non lo tenete in frigo? No, non ho fuori dal frigo, perché se mette in frigo è sempre duro. D'inverno è sempre solido, d'estate sì. Anche sì. Quello di lino? E l'olio di lino è solamente da usare solo per la cucina fredda, non per cucinare. Perché è un... Lo mettiamo in frigo nella scatola, perché tutti gli oli, soprattutto appunto questi, gli oli vegetali, sono altamente instabili. Quando li aprite vanno consumati entro 6 mesi, perché sennò irranciliscono, e tenuti al chiuso e all'ombra, soprattutto, no? Ma tutte le cose di mais, semi di girasole, poi qui spendo una parola sul girasole perché è doveroso, friol, arachidi, chi più ne ha più ne metta, ecco, per cantare il Signore, giustamente, no? Che costa anche di più. Che oltretutto, sì, però è questo, se noi, voi siete d'accordo che una bottiglia di olio di oliva extravergine non può costare 4 euro, perché è come se io vi dico che un buon Lagrain costa 3 euro, ma non ci crede nessuno, ma se devo pagarmi la bottiglia, l'etichetta e il tappo di sugo, mi costa di più, no? Quindi un buon vino sotto i 16 euro è un po' difficile, un buon olio sotto i 12 è difficile. Se voi volete un olio, c'è anche l'olio di girasole spremuto a freddo, che costa come olio d'oliva, che ha l'82% di acido oleico e quindi ha le caratteristiche dell'olio di oliva. Io preferisco il nostro olio di oliva extravergine, per carità del Signore, però pare che questo abbiano modificato una coltura del girasole e che abbia queste proprietà. La mutua freddo, ripeto, bottiglia di vetro, non è al supermercato, no? Io questo lo prendo per fare, se devo fare la maionese, perché la maionese è fatta con l'extravergine, è proprio pesante, è proprio stucca, no? Allora abbiamo questo girasole che è un po' più delicato nel sapore. Ma se io faccio anche per mio figlio che vuole i popcorn, io uso olio di grasso di cocco, la cotoletta alla viennese, grasso di cocco. Non riesco mai a trovare il burro chiarificato, ogni volta che arriva c'è lì il pezzo lì, è vuoto, si vede che la gente piace, non so. Poi mi consta che ci sia solo una marca, la Prealpi, che fa sta roba, vero? Devo vedere al biologico. E friggere la cotoletta col burro, va bene? Sì, ma che cos'è che si brucia? Deve prendere il burro chiarificato allora, questo qui, proprio il ghee. E allora sì, certo. Perché allora ti diventa innanzitutto... Poi tantissimo anche, il burro proprio sparisce. Sparisce, ma i cuochi la fanno così, non la fanno con l'olio. E poi soprattutto un'altra cosa che vi dico, tutti gli oli, tipo non lo so, avete presente i posti, adesso McDonald's, no? Che vi dà le pommes frites, sono oli continuamente riutilizzati, sono oli di colza, sono gli oli, sono quelli lì purtroppo. E sono quindi, è terribile perché abbiamo l'acrilamide che viene dalle patate più cotte negli oli, più gli acidi grassi trans. Quindi se volete farvi le pommes frites, fatevele voi a casa. Io ripeto, il grasso insieme al carboidrato è la combinazione peggiore che possiamo fare. Il grasso insieme alla proteina è meglio, ma comunque, siccome possiamo avere voglia di un piatto di pommes frites, viva Dio, giusto? E quindi fatevele voi, fatevele col burro chiarificato, fatevele con il grasso di cocco. Ci sono anche grassi di cocco, perché ovviamente il sapore, l'aroma è il cocco, quelli che hanno un aroma meno deciso, no? Il grasso di cocco è il 92% grassi saturi, e questo è importante, saper cucinare con cosa. Ma mi piacerebbe che voi andaste a casa questa sera pensando che i grassi, quelli sani, sono importanti per noi e che gli zuccheri non sono importanti per noi, ci stanno devastando. Mi dicono, ma gli zuccheri servono per il cervello. Ma no, perché allora io non dovrei più funzionare, perché io non mangio pane, non mangio pasta, non mangio i biscotti, non mangio contorni che contengano, è stato da Dio, da 3 anni che siamo depressa. No, però poi chi mi conosce, insomma, non sono depressa, mi arrabbio anch'io. Cosa mangio? E infatti arriva questo, noi siamo animali abitudinari, ma prima di arrivare al cosa mangio o cosa mangiano i miei pazienti, il nostro cervello funziona da Dio se usa gli acidi grassi tipo l'acido beta-idrossibutirrico. Quello sapete che lo zucchero crea dipendenza. Lo zucchero crea la stessa dipendenza che crea l'eroina o la cocaina o la marijuana, perché stimola le stesse aree cerebrali di queste droghe. Quindi se tu prendi un soggetto e che è abituato a consumare l'80% di carboidrati al giorno, i più svariati, tipici, quelli che fanno parte purtroppo della nostra cucina, e glieli togli e lo metti a grasso e proteine, è probabile che le prime 2 settimane stia male. Malessere, crampi muscolari, mal di testa, è veramente probabile. E questo succede spesso. Quando noi mangiamo anche tanti carboidrati così, con queste montagne russe dell'insulina che va su e giù, e che quindi anche la glicemia va su e giù, quando la glicemia va giù, voi avete l'attacco di fame e dovete mettere in bocca qualcosa. Che cosa? Metto i crackers. È questo che vi dicono gli dietisti, o no? Pacchetto di crackers, così ti sale la glicemia e dopo, rompete, va giù. E devi mettere ancora in bocca qualcosa. Se io mi metto il largo di colonnata in bocca, io non ho, cioè io mi sazio, perché il grasso sazia molto di più e anche la proteina sazia di più, ma io non ho queste escursioni tremende della glicemia in su e in giù. Quindi che cosa posso mangiare? Qui ci sono 80 ricette, ma che cosa posso mangiare? Io di giorno lavoro e oggi abbiamo fatto con la mia segretaria i pranci di salmone al forno con un'insalata mista. Se no ci sono delle quantità industriali di cose da mangiare fatte con le uova, fatte con le verdure, fatte con tutti i tipi di carne. Ad esempio vi potete mangiare anche la raciola di maiale, che va benissimo, perché per 2,5 milioni di anni siamo campati mangiando carne e pesce che cacciavamo. Se non cacciavamo, niente, non mangiavamo. Mangiando quelle radici e quei frutti e verdura che trovavamo, e il nostro apparato genetico ha 40.000 anni. L'agricoltura ce l'abbiamo in Europa esattamente da 9.000 anni. E questo apporto di zuccheri, che era nel 1700 di un chilo all'anno e che è passato a 70-80 kg di zucchero all'anno, il nostro apparato genetico non è attrezzato a farvi fronte. Quindi credetemi che c'è una marea di cose che possiamo mangiare. Non vi sto dicendo di diventare ortodossi come sono io, ma vi sto dicendo di cercate di portare un pelo di equilibrio nella vostra alimentazione, di ridurre questi carboidrati, soprattutto i cereali raffinati, in favore di cibi più genuini, più naturali, più vicino alla natura. Scusi, lo yogurt è da consigliare, si può usare? Lo yogurt, signora, sì, uno non ha problemi col latte, no, con i latticini, non c'è nessun problema. Io vi consiglio sempre yogurt rigorosamente naturali, bianchi, e di evitare ogni forma di prodotto light. Perché i prodotti light, oltre a costare di più, cosa fanno? Tolgono il grasso e poiché sa di cartone, devono mettere dentro zucchero. Zucchero, certo, zucchero, no, no. Quindi noi abbiamo quello che non vogliamo, lo zucchero. Quindi prendetevi gli yogurt e possibilmente i nostri, Mila, Bipiteno, Meraner, i nostri, bianchi, interi. Volete lo yogurt alla frutta? Ma ve lo fate voi lo yogurt alla frutta? Che problema c'è? Tranquilla, che problema c'è con lo yogurt di farselo da sé, lo yogurt alla frutta, giusto? Quindi anche i formaggi, non c'è nessun problema. Se avete un problema di peso, mi terrei un pelo indietro con i formaggi, ma vi assicuro che se voi riducete i cereali che ingurgitate del 50%, li sostituite con i grassi, il peso va indietro, essendo più sazi. Scusi, la pasta di Camut? Allora, il Camut è un marchio come Barilla, è una delle più grandi bufale che ci ha propinato l'America, e noi italiani, che siamo un po' pergloni, lei ha visto cosa costa la farina di Camut, vero? Sappiamo, no? 5 euro al chilo, no? E la farina normale non lo so perché non la compro. E comunque è una grossissima bufala perché contiene glutine tanto come l'altra. Ma non è meno selezionato il grano? Raffinato. Meno raffinato, è comunque un grano raffinato. Allora noi se volessimo mangiare dei cereali indicati, i cereali contengono tutti dei fitati che sono delle sostanze antinutritive come anche i legumi. Andrebbero fermentati o messi a bagno. Se tu li metti a bagno, facciamo con i legumi, no? Con il, giusto, ecco, li mettiamo a bagno e mettendoli a bagno molli fuori tutte le sostanze antinutritive che hanno. Infatti i miei pazienti, giusto per dire che mangiano grosse quantità di cereali, perché c'è gente che proprio li adora, quindi ne mangia veramente una grande quantità, hanno praticamente quasi tutti un deficit di ferro, magnesio, zinco, perché si legano a questi minerali e sbattono fuori, come anche lo zucchero si lega al magnesio e ve lo fa espellere. Quindi se noi li mettessimo a bagno 24 ore, ridurremmo di molto il loro potere anche nocivo, questi antinutrienti. Il guaio è che quello che noi compriamo è tutto raffinato. questo è il guaio. I cereali integrali in piccole quantità si possono consumare. Ma se voi portate semplicemente un equilibrio, anziché tutti i giorni la pasta, no? Cercate magari di vedere se ci sono dei prodotti al 100% biologici, perché se voi mi guardate il 100% biologico vi pone anche un po', vi protegge dagli OGM, degli organismi geneticamente modificati, che se no entrano dalla finestra se tu li chiudi la porta, perché ad esempio tutti i mangimi delle bestie, delle vacche, dei maiali di grossi allevamenti sono fatti con soia, colza, mais che sono importati, tutto quello che viene importato di questa roba qui è OGM, no? Quindi sempre ridurre percentualmente a favore dei grassi, tipo i grassi, il latte materno contiene il doppio di colesterolo rispetto al latte di vacca. Perché? Perché il colesterolo è importantissimo per il feto, ancora quando ce l'abbiamo dentro, per il cervello e per gli occhi. E la stessa cosa vale per i bambini piccoli. Loro hanno bisogno dei grassi sani. Dategli uova a questi bambini. Uno dei cibi più sani sono le interiora. Ma scusate, ma avete mai visto i filmati dei leoni, le tigri, quando prendono una zebra, l'antilope, cosa mangiano per primo? L'interiore, arriva il leone che non ha fatto niente, che sono un leonesse, no? Arriva lui, mangia l'interiore, poi se ne va, per il resto mangiatevelo voi. Non è che gli interessa il filetto, cioè, quindi se voi avete accesso a delle interiora sane, che sapete ovviamente perché vi casca l'asino, non c'è niente di più sano, ad esempio, che il fegato, che contiene tutti i tipi di vitamine. Le vitamine tipo A, D, E e K sono vitamine liposolubili. Vi dico anche questo, il nostro corpo, diciamo così, che la centrale del colesterolo, quella che regola il colesterolo, è il fegato. Dove lo mette? Nella bile. La bile viene poi messa nell'intestino tenue per digerire i grassi e assorbire anche le vitamine liposolubili. Ma dopo cosa fa il nostro corpo? La mia scemo. Riassorbe il 95% della bile che ha messo nel duodeno. Perché? Perché non può permettersi di perdere una sostanza preziosa come il colesterolo, che per farlo ci impiega dai 36 ai 42 passaggi biochimici. Non è una passeggiata fare il colesterolo. Quindi si riassorbe il tutto, perché sa quanto sia importante. Quindi voi volete che noi umani sappiamo di più della natura? Non penso proprio. A parte questa battutina qua, queste sono cose dimostrate e si sa, solo che tante cose vengono taciute, anche quegli studi fatti sugli anziani nelle case di riposo, dove emerge una mortalità più alta negli anziani, dove si abbassa il colesterolo. Sono studi pubblicati, solo non resi noti, perché sono studi scomodi. Gli anziani che vengono da me in ambulatorio con la statina, io gliela sospendo nel 95% dei casi. Vi racconto uno, cioè lì veramente ho dovuto mantenermi calma. Signora del 1927, che l'avevo vista tipo a gennaio, aveva la statina, quindi l'anno scorso 86 anni. Perché la statina? È perché il colesterolo alto. Allora aveva un deficit di vitamina D, aveva un'osteoporosi veramente avanzata e anche delle fratture vertebrali. Io avevo, facendo le ecografie, era venuto fuori che aveva un tumore ovarico. Ho scritto su tutto, ho detto sospendiamo la statina, diamo la vitamina D, va fatta una TAC. Mi torna a settembre, la signora aveva il tumore ovarico, che ovviamente era intanto triplicato, riprendeva la statina, non aveva mai preso la vitamina D, e però gli avevano fatto fare risonanza magnetica cerebrale perché era un po' demente. Allora io dico, se noi 86 anni magari siamo anche un po', ci dimentichiamo, scusatemi, possiamo anche dimenticarci, perché allora io sono demente a 49 anni perché mi dimentico delle robe che volevo dire 2 secondi fa, giusto? Ma la statina cosa serve a uno di 86 anni? A parte che non serve neanche quello di 30 anni di meno, quindi mi chiedo, forse si dimenticava per la statina? Ma dove mettiamo le priorità? Dove le mettiamo le priorità? Quindi questo vi racconto, questo e molto altro vi racconto nel libro, ma magari piuttosto che parli io, se avete domande voi da fare, prego. Ne avrei, cioè, lungo il percorso dovete fare 200, individui. Allora, la questione dei grassi idrogenati, adesso secondo le dichiarazioni di molti sì. prodotti, ormai non esistono quasi più perché dichiarano quasi tutti che non contiene. Allora, o è vero o non è vero? Un'altra cosa. Ho sempre ritenuto l'olio di palma scadente, lei invece dice di no. Non raffinato. Ah, ecco, non raffinato. Per esempio lì dei prodotti industriali con certo, non raffinato. I biscotti non dicono se è raffinato o non raffinato. Certo, è per questo, è sciarso. Quindi dicono sì. grassi vegetali. Sì, sono grassi cosa. Vegetali, ma infatti si mantengono. Grassi vegetali sono queste robe qui. Allora, io direi che non sono poi tantissimi prodotti dove scrivono non contengono grassi idrogenati, non idrogenati, no? Poi bisogna stare attenti che cosa loro riescono a fare. Mettono non contengono grassi idrogenati, ma le contengono parzialmente idrogenati. No, non contiene grassi idrogenati, sì. su molti c'è scritto proprio, ma poi, parzialmente. Ma poi li contiene parzialmente. Non sono obbligati a dichiarare questa differenza. No, l'unica cosa che loro sono obbligati a dichiarare, ad esempio sull'OGM, normativa europea, se supera lo 0,9%, ma non sono mica obbligati a dirti se tu compri la carne che ha mangiato di OGM, ok? Ecco, quindi... è un po' è come col Camut, no? Che ti dicono è sano, uno va, compra pasta di Camut, crackers di Camut e così, e paga 4 volte di più. Ecco, un'altra cosa, quindi la questione della dieta mediterranea è una truffa. La dieta mediterranea hanno fatto, no, non è una truffa, ma non è... Ed è la base molto, è stata cereale, l'agricoltura, appunto in questi ultimi millenni, comunque il grano, il riso sono stati una ma base. Ma cosa pensa che sia la dieta mediterranea? No, dicono appunto molto frutta e verdura e legumi, meno carne, poca carne rossa. No, questo lo dice ad veronese, esempio, la maggior parte dei contadini non aveva i soldi per prendersi la carne tutti i giorni, allora, ma mangiava... Hanno fatto un'intervista all'italiano medio per strada, che cosa intende lei per dieta mediterranea? Pasta. Pane, verdure. D'accordo? Il peggio, verdure, olio d'oliva, perché l'olio d'oliva, tu metti sull'olio d'oliva, sei salvo, no? Ecco. E alcuni, adesso lì, questi li lasciamo via, messo la pizza, ma questi li lasciamo via, ok. La dieta mediterranea, hanno fatto studi di popolazione, Corfù, Creta, dove mangiavano una quantità di grasso notevole, pecore, formaggi, pane che si facevano loro, come abbiamo detto, no, quindi quel pane lì, quello che andiamo a comprare noi qui, che per carità di signore non è pane, E quindi olio d'oliva, ma avevano grassi animali, ok? Quindi è quella, non questa nostra. Sì, però si muovevano molto di più un tempo, cioè forse c'è anche una questione di attività fisica, non c'entra nulla, cioè si dice che in effetti sì, erano più le calorie ingerite un tempo che oggi, no? Tutto sommato. Però certo. C'erano anche 6-7 ore sì. di lavori. Guardi, esatto. se noi prendessimo allora, l'uomo di 40, l'uomo della pietra, che se noi lo pigliassimo. Com'era, facciamo una foto dell'uomo della pietra. Lo dicono, ma era piccolo. No, non confondiamo. Ötzi aveva solo 5.000 anni, Ötzi è figlio dell'agricoltura, era piccolo, carie, fratture, osteoporosi. Questo è dimostrato perché lì ce l'abbiamo, no? L'uomo della pietra era piuttosto alto, tendeva a essere longevo, se non si fracassava l'osso del collo, non lo mangiava la tigre, ovviamente, o il mammut che stava sopra. E era molto muscoloso, quindi se fosse ai giorni d'oggi sarebbe alto come me e muscoloso. Se noi ce l'avessimo ai giorni d'oggi, noi quello lì preso, avete presente che c'è un film, quindi nel freezer tirato fuori adesso, in 10 anni avrebbe le stesse malattie nostre. Perché? Perché quello lì, se poteva, stava con la panza al sole, ma siccome se stava sempre con la panza al sole, non mangiava, allora doveva muoversi e si muovevano fino a 32 km, ma non perché era sano, perché se no non mangiavano. Cioè questo, sicuramente il movimento è essenziale per il nostro benessere, per il benessere psicologico, ma non è essenziale per perdere peso. Io ne ho uno in casa, mio marito ha perso in 8 mesi 26 kg e faceva ancora il pendolare. Solo con l'alimentazione? Solo con l'alimentazione. Cioè lui non ha più toccato un carboidrato, no, un cereale. Quindi i carboidrati della frutta li abbiamo. Ecco, quindi la dieta mediterranea non è sicuramente questa la dieta mediterranea. Non ci sono studi, ve lo assicuro, che attestano che la carne rossa faccia venire il cancro se abbiamo una carne rossa degli elementi adeguati. Molti mi nominano il China Study, che è uno studio osservazionale dove hanno preso in Cina e hanno distribuito questionari. Voi sapete che se ricevete un questionario a casa quanto, ok? Quindi in Cina e la Cina rurale. Io non posso fare uno studio così dove mi interpreto i dati come ha fatto Ansel Case nel 1952. Ok? Quindi dobbiamo sempre vedere cosa mangiamo. Ma pochi zuccheri? Sì, no, niente zucchero. Niente? Cioè in una giornata proprio nix? No, nix, nel senso se mi intende lo zucchero, cosa mi intende per zucchero? Il miele, per esempio. Il miele? No, cosa mi intende? Sì. Ma io la mangio la marmellata, io la mattina mi faccio due uova, me le sbatto prima, mi faccio l'omelette e uova sopra la marmellata che mi fa la mia mammina. Ecco. Che sarà eccezionale. E poi nel corso della giornata cos'è ancora permesso? Ma io... Cioè, 5 biscotti ci stanno. 5 biscotti? Ma se li fa lei, signora? Io non dieto mai, io vi dico semplicemente, poi ognuno è in grado di decidere. Se io so che quei biscotti lì me li fanno con zucchero, mi pigliano le farine, mi mettono dentro gli acidi grassi condensati, io non ce la faccio neanche più a mangiarli. Adesso a Natale hanno fatto dei biscotti, queste signore, magari anche voi, fantasmagorici, col burro, giusto? Viva di cianedro, mandorle, di tutto. Ecco, questi sono biscotti. Allora lì faccio il peccato di gola. Il primo novembre eravamo a Parigi, mi è venuta la malaugurata idea di mangiarmi un croissant al cioccolato. Io il giorno dopo ho avuto un attacco talmente potente di emicrania che ho pianto. No, è perché non mangio più sta roba. Non mangio più questa roba. Quindi, ma se lei se li vuole mangiare, signora, se li mangi non è un problema. Sì, ma no, ma io dico, ognuno deve mangiare quello che crede che gli faccia bene e che lo fa stare bene. Io vi dico quelli che sono i dati di fatto, è meglio. Ma comunque, ripeto, uno deve mangiare quello che lo fa stare bene. E se lei dice, io sto bene con 5 biscotti, ma se non mangi 5 biscotti? No, ma se mangi 5 biscotti, prego. È venuto qualche tempo fa la famosa dieta zona, sì, che proponeva un sacco di proteine ogni giorno. No, devo correggerla, no. La dieta zona è una dieta suddivisa in 30-30-40. Ogni pasto deve avere una quantità tipo 40% di cereali, 30% di grassi, 30% di proteine. Ma non è che proponesse una... Lei mi dice la Ducan, casomai. La Ducan. La Ducan, attenta che la zona è 30-30-40 e ogni pasto deve avere... Io non mi sto proponendo nessuna dieta. Mi sto semplicemente dicendo di cerchiamo di mangiare in maniera naturale. Prego. Lei parlava di uova. Si sa che le uova sono quelle che hanno più proteine di tutto, giusto? No. Hanno tanto proteine le uova. Ma allora l'uovo... Mangiando tante uova si mangia tante proteine. Dicono che fanno male ai reni o cose del genere. Chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Quello che leggo, quello che sento. Certo. Ma dicono anche che... Poche cose che so. Ma dicono anche che il colesterolo fa male, giusto? Oh, ok. Allora, a 230 adesso cosa l'hanno 200, sempre fatto 200 negli ultimi anni. Allora, le uova sono uno degli alimenti più completi che noi abbiamo, perché abbiamo una proteina di alto valore nutrizionale, quindi a più alto contenuto proteico sicuramente, perché se io mi faccio una bistecca di 3 etti, non è che io ho 3 etti di proteine, avrò il 20% di quella roba lì forse di proteine. Le uova hanno poi colesterolo, omega 3, folati, vitamina B12, vitamina E, zinco, ferro, lecitina, magnesio, fantastico. È veramente fantastico. non c'è uno studio in letteratura scientifica che attesti che consumare, poi non arriva mai a consumare tante proteine perché la stuccano, che abbia un effetto su un rene sano nefasto, assolutamente. Non è che lei si fa solo di proteine, lei cerca di equilibrare quello che mangia. Il ruolo dei legumi, quale può essere? I legumi non possono sostituirvi le proteine, men che meno la soia, perché contengono il 16% di proteine, ed è poco. Poi sono delle proteine, ad esempio i vegetariani hanno spesso un deficit, quasi tutti, delle vitamine che sono di provenienza animale, in particolare le B12. Molto spesso vegetariani abbondano di cereali e hanno un deficit di folati anche, ma i legumi tranquillamente sarebbe meglio bagnarli. Sì, no, ecco, sarebbe meglio, ma comunque non è che abbiano un ruolo determinante. Li possiamo mangiare, ma io non vedo di sostituire, è un po' dura sostituire le proteine solo con i legumi. A me piace, ad esempio, non li sopporto molto perché mi gonfiano, no? Ma se uno li mangia volentieri, viva Dio, vogliamoci. A me piacciono abbinati col pesce, ad esempio. Buoni, ma anche il minestrone con tutte, che buono, vero? Quindi la pasta con le verdure non è... Cioè, mi piace tanto fare la pasta. Sì, ma se la faccia, se la goda, se la goda la sua pasta con le verdure. Ma se la goda, signora, se la goda. E l'uovo sotto forma di frittata? L'uovo può farlo come frittata, può farlo come uovo all'occhio di bue con su lo speck. Fantastico. Come vuole, signora, l'uovo sodo, l'uovo alla cocca, come vuole. 2-3 volte la settimana, vero? Oh. Io lo mangio tutti i giorni. Tutti i giorni. Tutti i giorni. Quando vuole, signora. Ma mi riduca... Quando dicono il colesterolo alto, quindi è una cosa positiva? Allora, è sicuramente il colesterolo alto più positiva che il colesterolo basso, ma se c'è chi ha problemi di colesterolo che vuole abbassarlo, si allarma, no? Riducete gli zuccheri che introducete, non riducete i grassi, ma riducete gli zuccheri, allora così va indietro, cioè la signora... Chiedevo, volendo fare il pane a casa, che farina potremmo usare per mangiare una... Io quando faccio il pane a casa lo faccio con 5 chiare d'uovo, un vasetto di yogurt, c'è dentro farina di cocco, farina di mandorle, farina di semi di crusca perché è quello che lo rende morbido, 2 cucchiaini di lievito, 1 cucchiaino scarso di sale e poi metto dentro le noci. E poi lo avvolgo anche nelle noci, ma non so, di semi, di a casa, di semi di zucca, di semi di vino, lo faccio così. Grano saraceno no, la farina è... Grano saraceno di per sé non è un cereale, no? È un... No. Non mi viene in italiano. Ecco, più una graminaccia, un'erba, infatti, no? Pare meno... nocivo, ma c'è un sito in internet che è The Light Bakery, dove loro fanno un sacco di... propongono, questa c'era una coppia giovane che hanno cominciato a modificare la loro alimentazione 3 anni fa perché avevano problemi di salute e sono rinati, ma lei, se non fa colazione col pane, io sono morta, no? Allora hanno messo su, quindi veramente ingegnosi, bravi, hanno messo su questo sito che è partito proprio in autunno del 2013, dove hanno un sacco di ricette, questa è una delle loro, del pane ad esempio, perché lei ha trovato le ricette per fare i canedri, per fare i gnocchetti, tutte però con farine alternative, che le trovate se voi avete voglia di sondare quelli che sono territori comunque inesplorati, perché siamo tutti abituati, no? Facciamo la cosa impanata o facciamo le scaloppine con la farina, anziché la farina noi usiamo a casa la farina di mandorle, no? Quindi non abbiamo la farina raffinata, possono essere delle alternative. Comunque il sito è The Light Bakery. Quindi la farina bianca è meglio non usare. La farina bianca sarebbe meglio farla via, sì, ecco, meglio andare su. Il miele? Il miele, allora il miele Il miele è comunque zucchero, però contiene così tanti, se abbiamo il miele nostro, dei nostri apicoltori ovviamente, contiene tantissimi valori nutrizionali aggiunti, contiene un sacco di minerali, anche delle vitamine, microelementi. Tanto di miele non è che ci facciamo 6 cucchiai, perché come vi dicevo prima il dolce è zucca, quindi godiamoci il nostro miele, se non abbiamo ovviamente diabete o problemi metabolici, è sempre lì. Prego. Io sono un po' confuso adesso perché ultimamente ho provato a ridurre il consumo di carne, sì, perché secondo me mangiavo troppo, sì, almeno 4-5 volte a settimana, e adesso però ha detto che la carne non fa male. Allora, se ripeto, posso continuare a mangiare? Lei può, ma lei la mangia volentieri. Ma sei anemico? Sì. La mangia volentieri, sì. Basta, allora continui a mangiare. Metà anche del pesce, però, se le piace, perché il pesce è una cosa, sì, che non ha tutti proprio. E gli insaccati, però, da evitare. Ecco, allora vi dico sugli insaccati, è questo. Se si ha la possibilità di avere accesso a degli insaccati naturali, l'è un po' dura, perché ad esempio il buon speck, voi sapete che noi importiamo la carne di maiale, sì, adesso non c'è più. Siamo andati in un posto, mio marito e io, quest'estate a comprare speck, e ci hanno detto che sono bravissimi, da Trockner verso Föls, non ricordo, e questo eravamo lì, era pieno di turisti tedeschi, italiani, e mio marito e io abbiamo un altro turno, poi tocca a noi. E allora gli chiediamo: scusi, ma noi vorremmo uno speck bianco, con tanto bianco. E lui dice: no, guardate, mi dispiace, non viene richiesto, il mercato non lo chiede, se tu hai la carne grassa ricevi meno soldi. E allora, se questo è il guaio degli insaccati, no? Che se c'è la possibilità di avere il contadino che ti dà lo speck, non è un problema, perché allora sai che insomma c'è la possibilità, sono abbastanza gelosi del loro, vero? Fanno anche una bresaola che da noi in Alto Adige da urlo, se te la mollano, però questo è il guaio, vero? Un caso particolare. Chiedo se si può sedere, perché ci sono. Ecco, prego. Un caso particolare, trapianto di fegato, un ragazzo. Sì. E niente, è andato bene, bla bla, gli danno una dieta con moltissimi carboidrati. Sì. E gli avete? Con l'olio, microfono. Sì, allora no, è una domanda specifica, questa casomai ne affrontiamo dopo. Sì. Prego. Si può avere il libro che devo andare a vedere? E il libro io non ho portato, è in vendita in ogni libreria. Non può venderlo da lì. Non è mio, è della biblioteca. Sì. No, volevo sapere che relazione posso, c'è il signore dietro, ecco. Molto bene dell'uovo. Sì. L'uovo crudo, mangiato la mattina. Allora guardi, è meglio cuocerlo, perché c'è dentro la vidina, sono delle proteine che vengono, che hanno un effetto non proprio salutare. Adesso ho talmente una confusione in testa che mi sfugge adesso un momentino cosa fa, cosa si lega alla vidina. Sarebbe meglio cuocerlo. E l'uovo sodo? Come volete l'uovo? L'uovo sodo, la cocco, la frittata di uovo, le frittate con i zucchini, col salmone, come volete voi. E l'uovo strapazzato? Prego. Anche quello, con lo speck sopra. Ecco. Nell'uovo, sì, nel giallo dell'uovo, sì, c'è abbastanza, non so la percentuale, acido arachidonico. È possibile che, consumando tante uova, ci sia un accumulo di questo tipo di acido? Tranquillo. Tranquillo. Tranquillo. E i latticini non andrebbero aboliti anche quelli? Ma guardi, allora lì entriamo. Siamo nella fase della palio, almeno quelli. Ma io non. Guardi che io non paleizzo. Io sono una low carb high fat, cioè pochi carboidrati e tanti grassi, infatti il mio libro si chiama Oltre la paleo dieta. Nella paleo non ci sono né latticini né legumi, ma io dico questo, è come il signore che diceva la zona, noi viviamo in un contesto sociale, allora facciamo bene che ci invitano a cena, no? E uno che fa la zona fa un pelo fatica, perché si è abituato a fare 30-40% se fa la zona, no? Ecco. Allora dico questo, se mi piacciono i legumi, come la signora che mangia volentieri, le signorine, i legumi, mi va di mangiare i legumi, li sopporti bene, sì. Mi piace lo yogurt e il formaggio, ma hai problemi? No, mangialo, mi capisce? Quindi non fa male, sono come, sono comunque grassi animali. Signora, sì. So è che non è che sia il massimo inclusione della piscina, visto che siamo l'unica specie che dopo la diciamo, essere nati può allora, cercare bel latte mentre nessun altro animale fa parte della terra. Sì, fa. Buonasera signora, se volessimo essere proprio andare avanti dovremmo evitare di bere questo tipo di latte, andrebbe meglio il latte di capra, che sono proprio questi due tipi di latte di come sono costruiti. Però sì. Noi non beviamo, sono pochi quelli che bevono latte da adulti. Latte. Latte no, ma latticini. Latticini. Sì. E molti sono infatti intolleranti al lattosio, no? Ma quindi basta, certo, ma lei ha perfettamente ragione. Ma le assicuro che quelli che vengono da me convinti di essere intolleranti al lattosio, mettendogli un pelo a posto all'alimentazione, cavando un pelo, riducendo i cereali, stranamente si risolve tutto. Il peggio è anche un zucchero. Ma quello che è sbalestrante sono quelli che sono intolleranti al lattosio. Scusatemi, se voi la roba non la sopportate, cosa fate? Lascio via. No, cosa fanno? Latte senza lattosio, yogurt di soia, giusto? Latte di soia. Mi ha scritto una, ne abbiamo nel Dolomite, c'è una mailbox dove scrivono i lettori, scrive la mamma, settimana scorsa, di un bambino, dice il mio bambino è intollerante al lattosio, dove do latte di soia, lei cosa ne pensa? Risposta, tutto il male possibile. Innanzitutto con il latte. Secondo, se tu dai una roba del genere anche a un bambino maschio, è pieno di simili estrogeni. E poi, da dove viene quella soia lì? No, perché dico, scusatemi, io dico questo, se andiamo in Giappone, che hanno il natto, quindi è tofu, soia fermentata, perfetto, loro hanno una tradizione lì su questa roba qui. È come io vado in Giappone e mangio gli spaghetti, anche no? Ok? Quindi... Anche lì da valutare. Ecco. Darci le dosi di carboidrati massime che dovrebbero... Signora, non stiamo parlando di dosi massime di carboidrati, perché se lei si mangia tanta frutta, ha tantissimi carboidrati, no? Ripeto, quello che io vi consiglio è di ridurre... buonasera signora, di ridurre i cereali raffinati, anzi non compratevi i prodotti confezionati, non comprate ai vostri figli Coca-Cola e tè e quant'altro questa roba qui perché è devastante, questi sono pieni di sciroppo di fruttosio dentro, no? Che va direttamente nel fegato, no? Formando appunto il fegato grasso. Quindi quello che vi dico è cercate di andare di cucinare il più possibile vicino al naturale e di pensare anche a introdurre pesce, tutti i tipi di carne. Dicono la carne rossa no, allora a me verrebbe da chiedere a Veronesi quella bianca sì? Perché le galline, i polli e quant'altro da dove vengono? Qual è? Brava, l'allevamento, no? Qui vi voglio, perché un conto se compriamo il coniglio del contadino che è bello fisso e che è anche buono, o il pollo che sappiamo da dove è stato allevato. Ma perché ti mangi tutto quello che vuoi, dalla selvaggina alla carne di maiale, alla carne di... Io, ad esempio, mio marito e io compriamo la carne di... Perché compriamo? Di pecora e di capra. Le bracioline della carne di capra Manello. Sono fantastiche, no? Mamma, era capra quella lì. E anche siamo andati in uno di quelle macellerie che c'è in Piazza Vittorio degli Arabi, pulitissima, no? Veramente pulitissima. E hanno carne di agnello che è fantastica, ma veramente buona. È una carne grassa, ma veramente buona. E se gli chiedi da dove viene, ti dicono anche è veramente eccellente. Dove potete comprare carne di allevamenti adeguati, stiamo parlando di manzo, è la BioBeef. La BioBeef è un consorzio di contadini qui in Alto Adige, sono 17-18 contadini che allevano le bestie, sono libere in stalla, possono sempre uscire all'aperto, d'estate sono sempre in malga, non sono mai legate, e ricevono fieno d'inverno, d'estate mangiano l'erba, e ricevono sale e acqua, appunto. A 11 mesi vengono macellati, è una carne eccellente che vi portano loro a casa, lui ordinate e ovviamente ve la portano tipo il mese dopo, il sabato mattina, e è tutta in vacuumizzata, bistecche vacuumizzate, tagli da goulash, il macinato. Ecco, o se no sta a voi essere curiosi e chiedere dove andate a comprare. Permettetevi, rompete le scatole dove andate, chiedete, se non sanno rispondervi, non comprate, andatevene. Quando leggete dietro una confezione uno dei nomi dello zucchero, nel libro ve l'ho messo un tot di nomi di come può essere chiamato lo zucchero, riponete il prodotto, perché anche la senape contiene zucchero. Ok, quindi prego. E volevo chiedere se era meglio evitare di friggere gli alimenti. No, se lo frigge con un olio adeguato non c'è problema. Certo. Friggere con l'olio extravergine d'oliva? No, assolutamente, perché un olio è un monoinsaturo, quindi diventa instabile a alte temperature. E l'aglio? Buono. L'aglio e la cipolle sono i più grandi fornitori di zolfo. Certo. Io faccio battaglia con lui perché per la colazione lui va a comprarsi il pane, quello nelle confezioni. Terribile. Ci sono dentro 10 quello marrone. Sì, sì. Io continuo a brontolare, dico, ma questo non è pane. Non è pane. Ma non è pane, quello è il peggio del peggio. C'è cioè peggio del peggio. Anche il pan da tosta. Ma è il pane di segale, anche. Allora, più state. Allora, è un po' difficile a Bolzano trovare del pane decente. No, c'è Grandi che è un buon pane, ma in via Bottai uno se lo fa. Andare del pane il più semplice possibile, segale. Meglio quello segale lì. Segale è buono? Meglio quello lì, sicuramente, ma non quello nelle buste. Quello nelle buste è proprio terribile. Il segale dopo 5 giorni comincia a far male. Sì, ma un pane, guarda, ora se faccio il pane, io me lo faccio, mi dura anche 5-6 giorni. Quando lo faccio. Il pane integrale, il pane integrale. E non fa la buca? Sempre, sì, no. Il quarto giorno no. No, non dura di solito. Consiglio del pane integrale. Rimane sempre, signora, il problema di come è fatto, no? Infatti, tutto lì. Ma se uno se lo macina, si macina il grano, il farro. È sicuramente la cosa migliore, è sicuramente la cosa, perché almeno sa cosa c'è dentro. Signora? Sì, il cioccolato? Certo, signora, allora guardi il cioccolato. Allora, se voi la finite di voler, come si dice, Belone, premiare i bambini dicendo se fai il bravo, ti do la caramella al cioccolatino, no? Ecco, questa è la cosa più sbagliata che possiamo fare, ma viene sempre fatta, se pensiamo a scuola ancora elementari, no? Il cioccolato, cercare di andare su cioccolati meno raffinati, i cioccolati migliori sono quelli, il cacao non è dolce, di per sé è amaro, il cacao nativo è amaro e addirittura ha un sapore suo. E se ci abituiamo a allontanarci il più possibile dallo zucchero, cominciamo a godere quelli che sono i sapori reali degli alimenti. E quindi cercare non è male, perché se loro non abusano dei bambini di solito di cioccolato, loro quando ne hanno abbastanza smettono. Il bambino è molto più razionale di noi nell'approccio al cibo. E quindi cercare che sia un. Il cioccolato dovrebbe essere un piacere, ma non un piacere costante, no? Però non c'è problema. No, per noi la cosa migliore, i bambini non piace il fondente, no? Ma è buono, e ad esempio quello della Zaini, l'ex cioccolato, è, io direi, di quelli che si comprano il meno peggio, e c'è addirittura il Zaini grande, che è lo stesso, ho scoperto, quello che si usa per, che lo vendono come cioccolato da cucina, mi pare, no? Che è veramente buono. Sì, i quadratoni, infatti, io ho visto che mio figlio adesso gli piace, no? E è meno smaccatamente dolce, perché se ci si abitua a mangiare meno dolce, stucca un cioccolato tipo il Bacio Perugina, io non lo sarei più a mangiarlo, perché Ecco, ci sono quelli veramente buoni, anche delle cioccolaterie tipo la Domori, che fa dei cioccolati veramente buonissimi, no? Con poco zucchero aggiunto, però lì si gode. Solo che con 3 euro e mezzo, la alla fine, mezzo etto, prego. Ma scusi, ma lei sta bene? Ma lei è contento di bere il latte? E continui a bere il latte? Guardi, si goda il latte e vada tranquillo. Grazie.